Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, permettetemi di dedicare simbolicamente il programma di oggi al giocatore più coraggioso del basket italiano, che da ieri non c'è più. Si chiamava Paolo Barlera e aveva 27 anni. Buon pomeriggio, coach Dan Peterson. Buon pomeriggio, mi ricordo Barlera perfettamente, cioè, a parte 2,16 metri, ha avuto questa terrificante sfortuna con la leucemia. Era anche forse la più grande promessa della sua annata per il basket italiano, cioè proprio tutti parlavano con lui, di lui come proprio prospetto NBA, tanto per dire. Quindi è una tragedia a 360 gradi. Non c'è dubbio, coach. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. È tornato con noi in studio, permettete di dire, l'allenatore più hot del momento, Attilio Caia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno coach. Ciao Attilio. Una settimana fa esatta, mi avessero chiesto chi va a allenare Roma, avrei detto Attilio Caia. Poi le cose sono andate in modo diverso. Boniscioli allena Roma. Attilio, cosa è successo? Niente normali di trattative cestistiche. No, vabbè, ma insomma, normale. Poi quando ci sono poi in ballo anche certi personaggi, diventa difficile poi pensare solo alle cose logiche e razionali come possono essere. 800240024, numero verde, l'Eurolega, coach, che avete raccontato anche con Attilio Caia per Sport Italia, ha detto che Roma è ben lontana dall'essere guarita. Colmarussi sconfitta pesante, perché persa anche la differenza canestri, questo è ciò che forse pesa di più nel confronto diretto con i greci. Ovviamente Roma per me ha una squadra col potenziale di far meglio. È chiaro che essendo fuori un giocatore che a me piace tanto, tipo Della Fuente, che è fuori, Gigli è appena rientrato, Datome che è anche fuori lui, però la squadra ha giocato con una mentalità veramente di tutto dimessa, tanto per dire, e sto dicendo poco, ok? Quindi lì il signor Boniscioli ha un bel lavoro da fare, lo sa benissimo lui, la voce lì a Roma che lui li porterà in ritiro dal 26 in poi, non so per quanti giorni, perché veramente è una squadra capo tecnico al tappeto, cioè non c'è reazione, cioè loro hanno cominciato la partita, non so se Attilio stava lavorando con altre cose, però l'altra partita, però 0-8, 2-12, 5-15, cioè non sono stati in testa neanche una volta la partita, sono andati sotto di 20 e poi quando potevano almeno salvare avevano vinto più 12 a Maurizio, sì. Prima, quindi se perdono per 11, caso parità, vanno avanti loro. No, perdono di 13, e dovevate vedere loro, se non avete visto, gestire in una maniera, dico, allucinante per dir poco, ok? Cioè, malissimo, i due palloni che avevano per fare con lui, quindi siamo noi tutti quanti rimasti malissimo, perché Sport Italia vogliamo far più partite, certo. Dammi che fa dell'Eurolega possibile, cioè Milano, cioè siamo rimasti male per Treviso, figurati, ok? Quindi Roma, Milano non andare al top 16, Milano invece sta cominciando a giocare, però destino a, cioè, adesso sono non solamente pari Milano, ma vantaggio canestri loro, ma ovviamente queste ultime due partite sono chiave. Tornando a Roma, come l'avresti rivitalizzata tu, Attilio? E poi aggiungo, c'è un giocatore che io non riconosco più a Roma, è quello che gioca con, se non ricordo male, la maglia numero 9 con scritto sopra Hudson, ma non mi sembra Andrea Hudson. Beh, un altro giocatore che è veramente irriconoscibile, è passato un mese fa a essere il miglior guardia o play dell'Europa, adesso è un giocatore da tagliare immediatamente, quindi insomma c'è qualcosa che non quadra in questo. È la squadra che è andata in difficoltà, che è andata troppo giù, hanno lasciato andare troppo in difficoltà e quindi poi dopo ci sono anche magari così un po' di confusione, magari poca organizzazione, poco sistema, ha fatto sì che nei momenti di difficoltà ognuno andasse un po' per conto suo per cercare di risolvere il problema, perché è stato dimostrato che non era un problema comportamentale verso Gentile, certo. Perché dopodiché via Gentile meno 20 una, meno 15 l'altra, quindi assolutamente non era comportamentale, è che invece ultimamente parentesi, tende sempre a parlare poco di tecnica, perché c'è poca competenza e c'è poca conoscenza, quindi chi non conosce di tecnica fatica a fare un'analisi per capire come mai le cose non vanno bene, e quindi si nasconde dietro d'altro dietrologia. Invece in realtà è più semplice di quella che è, c'erano delle problematiche tecniche che si sono dimostrate sia con Di Carlo domenica che con Bonicioli l'altro giorno. Io volevo chiederti questo, coach, per quanto riguarda invece Milano, è un caso secondo te che questo buon periodo dell'Armani coincida anche con il ritorno a buoni livelli anche di un giocatore come Bulleri, che sembrava un po' smarrito, soprattutto la stessa stagione? Io ho dato l'MVP a Bulleri, potevo darlo a Finley, potevo darlo a Petravic, potevo darlo a Mancinelli per l'inizio della partita, a Mason Rocca per l'inizio, ma dato a Bulo perché ha fatto un paio di canestri determinanti in un momento determinante, quando loro stavano rientrando sono arrivati a meno 5, okay? Quindi avevano già la possibilità di vincere, almeno recuperare, a proteggere più 6 che avevano in casa. Tornando a Roma per un secondo, volevo aggiungere una cosa. Il problema con Roma è troppo diplomatico, forse per dire questo, ma hanno affidato, diciamo, le decisioni del general manager a persone, diciamo, che non provengono dal mondo del basket, quindi e questo è sempre difficile. Hanno affidato la squadra in campo a Gentile, un allenatore alle prime armi. Quando tu vai in Eurolega, questi sono grandi rischi, come vediamo anche nel calcio. Leonardo gli è costato un attimo a Milan per mettere i piedi per la terra. Quindi, e guarda la Juventus, guarda la Juventus con Ferrara, no? Assolutamente, un altro, ho dimenticato questo, grazie per la conferma, perché veramente è così. Quindi io a Roma avrei voluto vedere per loro un general manager con grande background nella pallacanestro, soprattutto grande conoscitore dei giocatori, degli agenti, di altre cose, un allenatore. Avevano Repesce, tanto per dire, uno che sarebbe secondo me andato benissimo. Poi non parliamo di Attilio Caia, e con tutta giustizia nel favore di Bonicioli, un po' di esperienza di questo tipo ce l'ha, perché ha fatto un Final Four, se non sbaglio, ha fatto anche diverse esperienze di Eurolega, ma dovevano cominciare l'anno con Bonicioli, non con Nando, che è stato un gioco troppo grande per lui in questo momento. Io penso che Gentile fra 5 anni, se fa 5 anni di buona esperienza, può anche essere pronto per fare questo. Adesso forse no. Tornando a Milano, ieri un'altra buona partita in Eurolega, 6 vittorie in fila in campionato, quindi un momento importante. Adesso ci sono 2 settimane, o 3 effettivamente, di pausa prima delle prossime partite di Eurolega, con un calendario molto delicato sia per loro che per Procom, perché se Procom riesce a battere Khimki in casa, l'ultima, Milano perde 2-2, l'ultima è prendere Real Madrid qui a Milano, è un guaio ovviamente. Quindi Milano potrà rimpiangere la partita buttata via a Madrid, altre sconfitte partite veramente gettate dalla finestra. Quindi Milano deve stare, non ha più spazio per sbagliare. Non ha più spazio per sbagliare, coach. 0-0. Coach, venerdì prossimo è Natale, io ti faccio gli auguri. Noi torniamo dopo le feste. Non ci sentiamo venerdì prossimo. Natale, coach. No, ragazzi, mi dovete chiamare lo stesso. Okay? Ma certo che ti chiamiamo per farti gli auguri, ma magari non pubblicamente. Ok, chiamatevi venerdì lo stesso, ok? Ciao, grazie, ragazzi, coach, un abbraccio. Ciao, un abbraccio, ok? Grazie, grazie, coach Dan Peterson. Palla spicchi. Beh, puntata calda, 800240024, numero verde, Flavio. C'è un messaggio, che così almeno mettiamo Attilio in grado di spiegare la sua diplomazia. Un messaggio che scrive: per Caia, chi sono state le persone che si sono opposte al suo ingaggio a Roma? So che è cattivino come messaggio, però visto che... Questo posso supporre, ma faccio fatica a dire dei nomi e cognomi. Certo è che sicuramente Bottai non è un mio tifoso, anche perché Bottai, così pure come non è stato tifoso di allenatori di una certa personalità, Bottai già al tempo non fu tifoso di Piero Bucchi e lavorò abbastanza affinché Piero Bucchi se ne andò. Bottai non fu tifoso di Repesa, infatti è stato anche l'anno scorso uno dei motivi delle problematiche di Repesa anche a Roma. Quindi sai, quando... sono in buona compagnia, quindi voglio dire, non c'è problema essere tra Bottai e Repesa su da che parte stare e così via. E quindi Bottai ha questo suo modo di interpretare il basket, ha bisogno di gente che gli dia lo spazio, lui vuole avere il suo spazio, vuole avere i suoi contatti. Poi c'è anche un avvocato, che adesso non mi ricordo neanche il nome, perché è così, che si vanta di aver fatto la storia della pallacanestro di Roma, in realtà qualche squadra a Roma l'ha già fatta chiudere, quindi insomma speriamo che non faccia chiudere anche questa. E poi si dice vincere a Roma, che sia un luogo comune il fatto che vincere a Roma non è poi così difficile. Difficile. Beh, in queste situazioni è difficilissimo. Il fatto che il presidente Totti, che ha una grande passione, una grande disponibilità, cioè obiettivamente le critiche che vengono state fatte a lui dai tifosi, così, cioè lui ha dato fiducia a delle persone, e questo non... voglio dire, fino a prova contraria non è una colpa. Il problema è che quelle persone, quando vedono che le cose non vanno bene, è facile che se ne debbano farsi carico. Cioè adesso Gentile, che era l'uomo di tutti, poi è rimasto l'uomo di nessuno. No, le ultime partite, vedi, è stato visto da fuori, da lontano, un po' fastidioso il fatto che è stato un po' lasciato lì a prendere i fulmini, no? Non era accompagnato da nessuno, era difeso da nessuno, anzi c'erano questi due personaggi che parlavano anche con, hanno preso distanze anche con telefonate alla stampa, telefonate alla stampa non ufficiali, si dice ufficiose, dice, prendendo le distanze, così. E quindi insomma è difficile. Gentile, che colpe ha avuto, cioè quello di essere giovani e di essere esordienti per me non è una colpa, perché tutti all'inizio possono commettere qualche errore e così via. Il problema è che bisogna avere qualcuno che ti possa aiutare. L'anno scorso c'era Bodiroga. Bodiroga era un grande uomo di sport, è stato un giocatore importante, quindi c'era uno che potesse aiutarlo, che potesse dargli una mano, che potesse anche proteggerlo quando era il caso. Potesse parlare ai giocatori. Adesso mi risulta che quando parla Bottai i giocatori gli fanno la vocina, gli fanno così via, quindi insomma è veramente difficile. Poi dopo pensare che Gentile da solo in una situazione difficile come potesse uscirne, però come è successo qua ai tempi di Natale di Milano, quando Marcoschi venne esonerato, Natali, visto che aveva condiviso tutte le scelte con lui, se ne andò anche lui. Si dimise, se ne andò anche lui, perché aveva condiviso la scelta dei giocatori, aveva condiviso la preparazione, aveva condiviso tutte quelle cose, e quindi era stato una cosa... comportamento coerente. Esatto, però, di quella situazione. Allora, già ascoltatori, Giacomo Trieste, Fabio Siena. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, io vorrei cambiare un attimino argomento parlando della nazionale, dell'assunzione di Pianigiani come coach. Vorrei sottolineare due aspetti. Io ho avuto modo di conoscere le condizioni del contratto di Pianigiani da un amico che lavora nel board della FIP, e sinceramente mi lasciano abbastanza interdetto, nel senso che Pianigiani ha ottenuto veramente un contratto per lui ottimo, se non è della FIP capestro, perché tutto quello che voleva l'ha ottenuto, un ingaggio molto alto, l'impiego part-time, tutti i suoi collaboratori. E quindi secondo me la federazione si è messa un po' nelle mani di Pianigiani, facendo capire fin dall'inizio che non c'era una reale alternativa a Simone Pianigiani, c'era solo questa opportunità, e questo secondo me è un rischio, perché tu fai capire a una persona che l'unica scelta è lui, o si prende lui o si diventa allenatore, e quindi magari poi daranno ragione, però secondo me il modo in cui è stata gestita, al di là della querela poi Petrucci, Meneghin, a me ha lasciato abbastanza stranito, anche perché sicuramente Pianigiani è un ottimo allenatore, su questo non ci piove, però a mio avviso la FIT non si è comportata a livello di negoziazione, a livello di impatto mediatico, nel modo migliore possibile. Dunque, Pianigiani coach part time, le cifre che so io sono quelle che riportate sui giornali. È chiaro che Simone Pianigiani era la scelta numero uno, e in questo momento molto difficile si voleva andare con l'allenatore numero uno, con la scelta numero uno. Meneghin lo ha fatto, anche a dispetto di Petrucci. Oggi c'è sui giornali, su praticamente tutti i giornali c'è un'intervista a Meneghin che dice: ho cambiato idea su Pianigiani, ho cambiato idea sulla figura di allenatore part time, ho cambiato idea, volevo Simone Pianigiani, abbiamo preso Simone Pianigiani, allenatore numero uno, adesso si tratta di costruire una struttura di cui magari lo stesso Attilio Caia potrebbe andare a far parte. Io dico subito che sull'idea dell'allenatore part time non la penso come Petrucci, cioè secondo me per la nazionale un allenatore part time va benissimo, come dimostrano i risultati ottenuti da Recalcati nel momento in cui era allenatore anche proprio di Siena. Sì, tra l'altro l'anno prossimo come calendario di attività c'è veramente pochissimo, perché si tratta di andare a giocare le qualificazioni ai prossimi europei dal 2 al 29 di agosto, gli europei di Lituania, quindi sarebbe comunque un'annata praticamente vuota. Il percorso di Pianigiani e di Recalcati sono abbastanza simili, perché Recalcati allenava la Montepaschi quando ha iniziato a fare allenava la nazionale e ha chiesto il part time per allenare la Montepaschi. Pianigiani fa il contrario. Però, guarda caso, i risultati migliori ottenuti dall'Italia probabilmente in maniera casuale, però erano quando Recalcati era part time. Era part time, Attilio. Ma insomma, penso che in un momento così di difficoltà per la pallacanestro italiana ci fosse bisogno del numero uno in assoluto. Oggi il numero uno in assoluto a livello di credibilità verso l'Italia e verso l'esterno, perché quello che fa in Italia in Eurolega è sotto gli occhi di tutti. A livello di qualità di gioco, cioè fosse numero uno, ma senza alternative, cioè le alternative a livello italiano non c'erano, e di conseguenza quello che dice oggi Meneghin sui giornali, dice: io mi batto per una scuola italiana dei giocatori, mi batto per avere un italiano in più, e dopodiché devo avere una coerenza in questo e devo prendere l'allenatore italiano, anche perché l'allenatore italiano è il rappresentante di una scuola italiana. Ci sono 14.000 tesserati come allenatori, è chiaro che tutti vedono in quella possibilità di poter arrivare a un certo punto la nazionale, il punto di partenza. Pianigiani, che è partito anche lui come tutti i corsi, come con gli altri allenatori che fanno questa scuola, arriva lì. Penso che sia la scelta migliore. Anche lo stesso Petrucci non entra nel merito sulla scelta della persona, chiaro. E quindi, visto che qui parliamo della persona, l'opinione pubblica a livello di media è la scelta condivisibile da tutti. Lo stesso Messina si è schierato nettamente per questa posizione, dicendosi anche disposto ad aiutarlo, a dare una mano, a collaborare per quello che Pianigiani ritenesse possibile, compatibilmente con le disponibilità di Messina, che ha già impegni molto importanti. Quindi penso che fosse da tutto il movimento una scelta ben accettata. Sul discorso economico mi risultano cifre, assolutamente, senza entrare nel merito, ma non importanti, assolutamente, anzi sotto anche rispetto a quelle che erano del vecchio contratto e della vecchia situazione. Non mi pare di parlare di contratto capestro, insomma, quanto a questo tipo di contratto. Poi dopodiché c'è fino a un anno e mezzo, perché Pianigiani ha il contratto con Siena che scade fra un anno e mezzo, dopodiché lì si può vedere, discutere se rinnovare part time, ma nel caso di fare tempo pieno, quindi c'è tempo anche in quell'occasione per valutare, anche vedendo eventualmente il risultato dell'europeo, perché ti va a classificare eventualmente per le Olimpiadi di Londra del 2012. Non c'è dubbio che il prossimo anno e mezzo sarà quello chiave. Per la nostra nazionale. Prima di Fabio da Siena abbiamo anche un paio di, visto che siamo in argomento, un paio di voci, a cominciare da Dino Meneghin, proprio presidente federale. Ho chiesto di andare avanti sulla strada di Pianigiani, di farlo diventare il prossimo allenatore della nazionale. Ho avuto l'ok, per cui andiamo avanti e speriamo di concludere al più presto. C'è stata anche la reazione del presidente del CONI Petrucci, che non vede di buon grado però un CT part-time. Che situazione si prospetta all'orizzonte? Mi dispiace che il presidente Petrucci si sia arrabbiato, perché considero il presidente un fratello maggiore, lo conosco da 30 anni. Ha ragione quando dice che noi ci siamo parlati per avere un allenatore a tempo pieno, però sul mercato non ci sono allenatori liberi che possano fare questo tipo di incarico 365 giorni all'anno. Ho vagliato tutte le varie possibili soluzioni. Io volevo sulla panchina della nazionale un allenatore italiano. L'allenatore più bravo in questo momento in Italia, l'allenatore motivato, competente e vincente, è sicuramente Simone Pianigiani. Ha il contratto ancora con Montepaschi di Siena, per cui era necessario andare su un accordo in part-time. Questo Meneghin al microfono di Dario Ricci, mi sembrano molto chiare le parole del presidente federale, che tra l'altro, cosa da sottolineare, ha detto: ho cambiato idea, anch'io all'inizio ero operatore a tempo pieno, poi le condizioni sono quelle che avete sentito e quindi così si è fatto. Fabio Siena, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo rivolgere una domanda all'allenatore ma i problemi in realtà sono per il contatto con Pianigiani Fabio, io la sento veramente molto male, quindi adesso, tra l'altro, dobbiamo fermarci tra pochissimi secondi per la borsa, quindi cerchiamo di ripristinare il collegamento e quindi di capire la domanda che vuol fare ad Attilio Caia. Palla spicchi. Dunque, abbiamo, credo, ripristinato il collegamento con Fabio da Siena. Ho anche tanti messaggi. Un saluto a Paolo, siamo tutti vicini ai suoi genitori. Ti ricordiamo domani al palazzetto, ti portiamo i nostri cuori, Nico da Biella. Sì, anche perché Carlo Biella e Virtus vanno a giocare con chiaramente lutto al braccio. Noi, abbiamo dedicato all'inizio, appunto, questa puntata al ricordo di Paolo Barlera. Fabio. Sì, buonasera, rinnovo. Finalmente sentiamo, grazie. Sì. Dunque, la domanda che volevo fare molto diretta all'allenatore che stimo a Attilio Cali è questa. Non è che l'atteggiamento di Petrucci in realtà è una ritorsione per quelli che sono i rapporti Petrucci-Minucci sul modo di gestire e vedere la pallacanestro italiana, e quindi in qualche modo è un contrasto che esula dal rapporto eventuale tra la nazionale e i tennisiani, che sono rapporti a tempo pieno, ma ripeto, sono rapporti esterni a questo? Ma io penso, da quello che ho letto un po' intorno alle dichiarazioni e poi considerato anche l'intelligenza notevole di Petrucci, che non sia questa la situazione. Lui sicuramente è rimasto male perché dopo che aveva trovato l'accordo con Meneghin si erano sbilanciati oltre facendo dichiarazioni sul tempo pieno, dopo questa virata qua, e quindi dover quasi vedere che Petrucci, essendo presidente del CONI ma grande appassionato di basket, arrivando dal basket, quindi il basket il suo mondo, si è sentito un po' tra virgolette tradito da questo presa di posizione, da questo cambio di rotta a 360 gradi di Meneghin, e quindi l'ha accettato non condividendolo. Probabilmente è nato tutto da che forse si erano spinti un po' oltre prima in quelle dichiarazioni pubbliche, certo, giornali, stampa, ufficiali, dopodiché dovendo fare retromarcia si sono sentiti un po' così e un po' tradito, pensava che fosse dovesse andare diversamente, penso tutto in lì. Però come al solito il tempo e poi magari i risultati. Saranno la miglior medicina, cuciranno tutto. Sono due persone di grande spessore, di grandissima intelligenza, grandissimi uomini di sport, e quindi il tempo sarà il medico migliore. Senti, però c'è anche un'organizzazione da creare intorno al ruolo di Pierangeli, allenatore part time, cioè c'è tutta una struttura che dovrà colmare appunto questo vuoto, no? L'aveva dichiarato in tempi non sospetti, nel senso, quando si parlava di varie situazioni, di vari incarichi, quindi mi riferisco a 3 o 4 mesi or sono, Simone aveva detto: va bene, l'importante è creare un campionato europeo, una cosa importante, avere una struttura tipo quella di Eurolega, cioè una struttura importante dove ci siano compiti importanti, dove ci siano ruoli importanti e quindi con esperienze importanti. Quindi è chiaro che quando Simone dice che ci vuole una struttura di Eurolega, già si capisce che l'importanza che crede, però insomma adesso sarà il tempo, cioè se eventualmente lunedì, come sembra, ci sarà questa firma, ci sarà questa poi presentazione, dopodiché da lì sarà anche il momento per cominciare a parlare, costruire, a pianificare, a costruire. Però le idee sono chiare. Il presidente Meneghin si è affidato con grande fiducia a Simone Pianigiani. Simone Pianigiani, che ha vinto in campionato, ha vinto in Rega, sa cosa ci vuole, sa la struttura che c'è a Siena, sa quello che è stato creato, e quindi si tratta di magari con persone diverse, perché a Siena deve continuare, perché anche se non c'è Simone Pianigiani la struttura di Siena è molto importante che debba continuare ad andare avanti, perché debba fare un lavoro di un mese o due mesi senza di lui, quindi rapportata ad altre parti, con altre situazioni si possa ricreare la stessa struttura. E tra l'altro una delle ipotesi era proprio quella, visto il part time di Pianigiani, di come dicevi tu Attilio, di affiancare un allenatore che però facesse un lavoro a tempo pieno. Ecco, questa è stata la voce degli ultimi giorni, quindi un allenatore non un semplice assistente, ma un allenatore che magari vada a guidare anche una rappresentativa giovanile, ma che faccia il CT, diciamo l'assistente CT ma a tempo pieno. Diciamo anche che Attilio l'abbiamo invitato anche per questo motivo qui, perché uno dei nomi che si fanno per questo ruolo, Attilio, è proprio il tuo, insomma. Ma insomma, io penso questo sanno loro quello che hanno bisogno, anche perché poi dopo devono confrontarsi con le reali possibilità anche di una struttura, confrontarsi anche con il presidente Meneghin, con Barnaba che è il responsabile del settore, quindi insomma dovranno confrontarsi anche tra di loro, vedere anche le disponibilità, se c'è possibilità di quanti e come allenatori da inserire un nuovo organico, perché già fanno parte delle tecnici federali, ce ne sono già gente che è ancora sotto contratto fino alla fine di tutta l'attività sportiva, quindi insomma bisogna non è ancora ben chiaro quali margini ci possono essere, anche perché se il contratto non è ancora stato firmato, poi nello specifico è chiaro quali saranno i problemi che andranno a svilupparsi quando ci sarà da parlare di un'organizzazione e della programmazione dell'anno futuro. Stavo leggendo i messaggi. Luigi da Caserta: non c'entra nulla con la nazionale, ma con il campionato. Domani ad Avellino circa 2000 casertani. Il bello del basket, scrive Luigi da Caserta. 4 vittorie in fila, secondo posto. Caserta è davvero una cosa seria. Caserta è una cosa seria, e ha fatto col De Bella, ha fatto benissimo, ha costruito, preso giocatori che non erano conosciuti, e molti al campionato italiano. E quindi insomma col De Bella ha studiato per fare il manager, ha fatto prima giocatore, poi ha fatto l'assistente allenatore, quindi sa come bisogna aiutare un allenatore, sa come l'allenatore vede le cose in un certo modo, poi ha fatto anche studi di marketing, cioè lui ha fatto veramente tutte le tappe per essere a 360 gradi. Quest'anno ha operato benissimo, ha messo a disposizione dell'allenatore Sagripanti degli ottimi elementi, e poi Sagripanti ha fatto la sua parte, perché le ha fatti giocare molto bene, ha reso una squadra molto omogenea. Sì. Erano tanti giocatori nuovi, a parte Di Bella e Michelori, che erano un po' la spina dorsale portante, però tutti altri giocatori nuovi, quindi in dimostrazione che in poco tempo si può fare. Non in molti dicono la squadra nuova ci vuole il tempo. Caserta ha lavorato bene da subito, seriamente, quindi parte col De Bella benissimo, Sagripanti benissimo, hanno lavorato entrambi ad ottimo e oggi sono obiettivamente, quello che hanno fatto in queste prime 10 partite, la seconda squadra, certo, del campionato. In questo momento non c'è dubbio. A proposito di squadra nuova ci vuole tempo, vorrei tornare un attimo a Milano, perché in settimana ho letto su Repubblica, se non ricordo male, un'intervista a Livio Proli, il quale diceva, non ce l'ho sotto mano ma ricordo bene le parole, l'Eurolega a noi serve grosso modo come allenamento, usiamo l'Eurolega come allenamento per il campionato, così come Siena usa il campionato stradominato come allenamento per l'Eurolega. Usiamo l'Eurolega come allenamento per il campionato con un obiettivo però molto lontano, perché Scudetto, beh, quando finirà il ciclo di Siena? Magari 2011. Sembra una strada lunga, per Milano. Strada lunga, anche perché quest'anno, poi visto tutti i cambiamenti fatti, siamo ancora diciamo all'anno zero, che praticamente l'anno scorso hanno cambiato, arrivati in secondi, però non è rimasta niente, quindi quest'anno dovrebbe essere ancora chiaro l'anno zero. E beh, ma d'altronde lui è il presidente, è quello che, colui che dà la politica della società, la strategia. È difficile dirgli che non va bene, questa è la sua politica, bisogna prenderne atto. E infatti penso che anche i vari movimenti che stiano facendo in sede di mercato sia destinati a un'Eurolega da allenamento, è un campionato per arrivare nei primi 4 posti, perché si leggevano anche nomi sui giornali, cioè di alcuni stranieri che dovevano arrivare qui, da Graves, che era stato tagliato al Cibona Zagabria, a Rivers, sì, allo stesso eventualmente Ben, cioè, però onestamente secondo me non giocatori che ti cambiano la squadra, ma secondo me ti possono creare un problema, perché non è casuale che fuori Hacker ha avuto grandi responsabilità Mordente e Bulleri, e la squadra ha fatto questo risultato. Classico, cioè, esempio di squadra che cresce per sottrazione. Esatto. Questa la migliore addizione spesso è una sottrazione. Quindi è successo questo. Allora, se tu vuoi quindi questi giocatori, Bulleri è meglio di questi giocatori. Bulleri è meglio, certo, di Rivers, Bulleri è meglio di Bannerman. Adesso leggevo anche di Tsatsaris, quello di Napoli, che probabilmente finirà in Grecia, oppure questo Graves. Bulleri è meglio di questi giocatori. Mordente in quintetto ha dimostrato di essere un giocatore estremamente importante. Cioè questa gente è coinvolta da quando non c'è più Hacker, questa gente ha coinvolta, gli hai dato responsabilità, gli hai dato fiducia, se la sono presa. Io sono sempre dell'idea che accorciare, sì, giocare sempre in meno possibile, quindi meno sono, le responsabilità sono più importanti, e questi giocatori che sono di grande valore hanno cambiato la stagione. Adesso l'hanno avuto, questo cambiamento l'hanno avuto per fortuna, non per scelta, sì, perché sì, se non si faceva male Hacker probabilmente non c'erano questi, l'hanno avuto per fortuna. Adesso ritornare indietro vuol dire ancora andarsi a cercare dei guai. Potrebbero fare solo dei cambiamenti per un salto di qualità. Mi sembra che potrebbe essere un giocatore importante e libero in questo momento, potrebbe essere Marko Jaric. Questo sarebbe un giocatore che cambierebbe qualcosa. Questo è un altro film. Però bisogna vedere se una vuoi rischiare qualcosa o non vuoi rischiare niente. Non mi pare però che, insomma, che la politica di Milano sia quella delle stelle. Sempre no. Proli diceva: ma io non condivido il fatto che a Milano serve un grande realizzatore, una grande stella. Qui abbiamo una squadra di protagonisti diversi ogni volta. Questa è una soluzione. Tu dici prenderne atto, però c'è sempre qualche conto che non mi torna, perché insomma, per ottenere questi risultati forse può spendere anche un po' di meno, no? Cioè, beh, per avere risultati con Eurolega da allenamento, campionato da vedi tu, terzo posto, prime quattro. Insomma, mi sembra che Milano sia comunque una squadra con ambizioni diverse anche dal punto di vista del economico, del budget. Beh, insomma, economicamente penso che possa essere la seconda squadra del campionato. Punto. Quindi poi dopo se arriva se terzo, quarta o seconda, perché anche l'anno scorso, secondo posto l'anno scorso, poi è stato fatto passare un po' così, però insomma è stato un secondo posto un po' anomalo, visto il campionato chiuso al sesto posto e il quarto di finale contro Teramo un po' discutibile. Tra l'altro prima Coach Peterson parlava di sempre più persone che vengono messe nei ruoli dirigenziali e che non provengono dal mondo del basket. Credo che non siano soltanto Milano e Roma gli esempi, però insomma bisogna conviverci, mi pare, Attilio, no? Eh beh, questo è chi è che poi dopo riesce a fare bene, come ripeto, col De Bella quest'anno a Caserta riesce a mettere qualcosa in più e quel valore aggiunto, e come tutti parlano, anche perché vedi, tutti parlano di la differenza Siena importante perché c'è Luca Banchi come assistente, Minucci come manager, cioè gente che ha una struttura importante, però poi dopo dice quello è il valore aggiunto di Siena, poi nessuno cerca di ricopiare quello, no? Allora voglio dire, ok, Luca che è bravissimo, è stato un eccellente allenatore, può essere un allenatore importante di Serie A, se quello è un valore aggiunto perché non lo fai anche tu? Cioè perché anche tu non fai come lui? Cioè Minucci è il manager numero uno che a livello europeo tutti seguono, così via, e poi da altre parti mettono dei commercialisti a fare i manager, mettono degli avvocati a fare i manager, cioè allora cioè, copia bene, se puoi copiare copia bene, poi non sarà la copia, non sarà come l'originale, però insomma è sempre meglio una copia, però che sarà non qualcosa che gli assomiglia, che gli assomiglia, ecco, quantomeno può fare la scuola per arrivare a quella. E io insisto, come l'ho conosciuto col De Bella, ho visto quello che lui ha lavorato, come si è costruito questa sua attività, e così pure vale per Massimo Faraoni a Bologna. Cioè, qui parliamo di manager di alto livello che hanno avuto un loro futuro, una loro esperienza, non è un caso. Quello che fa Cantù con Arrigoni. Cioè, certo. Qui siamo davanti a dei numeri e dei risultati lunghi nel tempo, non a casuali. Gente comunque nella pallacanestro da molti anni che la conosce in maniera profonda, questo è evidente. Palla spicchi. Eccoci tornati, Attilio, fumo arbitri, intercettazioni eccetera, ma arrosto mi sembra poco, anche qui dico cose magari impopolari, no? Un po' controtendenza, però a me sembra che in tutto questo pattume di reati e di illeciti ce ne siano, e siano anche stati puniti, mi risulta, dalla federazione, però tutto il resto mi sembra semplicemente malcostume, maleducazione, appunto spazzatura di personaggi poco conosciuti, assolutamente non credibili. Eliminiamo quelli, ma grosso modo facciamola finita, mi pare. Sì, penso anch'io, anche perché poi anche alla luce delle ultime dichiarazioni anche di Meneghin, dove dice che ha avuto la conferma dalla procura di Reggio Calabria che il caso dovrebbe essere chiuso, che non ci sono altre carte che loro non abbiano in possesso, quindi qui sono già stati probabilmente messi indagati 41 persone, la procura federale ha fatto una propria inchiesta, ne ha sanzionati 34, infatti prese i provvedimenti. Poi dopo, se non si sanno i nomi di questi 34, io una volta ho avuto l'opportunità di leggere dei nomi, ma io che sono 25 anni nel basket, cioè di questi ne conosco 6 o 7, quindi voglio dire, non è che penso che e possa 7, essere ma per sentito per sì, di cioè voglio dire, quindi no, penso certo che possa essere cose così, e poi dopo invece mi sembra che si voglia fare pure di tutto un erbo un fascio, così pure quando viene tirato in ballo il discorso della designazione, un arbitro non è andato a arbitrare una squadra, cioè questo è sempre stato a tutte le parti, ma questo viene fatto anche a tutela dell'arbitro, perché se un arbitro ha un problema, una partita dove c'è qualche polemica con una squadra, di sicuro non l'aiuti se lo rimandi ad arbitrare quella squadra, non crei un clima di serenità. Quindi anche per te, designatore, visto che ce ne sono 40 di arbitri, quindi se invece andare da una parte va da un'altra, quindi voglio dire, aiuti a svelenire un po' il problema. Sì. Cioè, uno, se non hai problemi, perché se li deve andare a cercare gratuitamente? Certo. Quindi, insomma, mi sembra. No, che... mi sembra molto una vicenda destinata a far molto chiacchierare, a fare molto gossip, a fare molto fumo, molto colore. Poi, ma di concreto mi sembra quello che doveva emergere sia emerso. Poi la federazione, se non ha pubblicamente comunicato sti nomi, vabbè. Ma anche soltanto come è nata questa storia dovrebbe farci riflettere. Cioè, è nata da un arbitro che ha avuto una carriera conclusa per altri motivi, che è riuscito a far aprire questo fascicolo. Si tratta però di arbitri di categoria talmente bassa che, insomma, anche la nascita di questa questione lascia, secondo me, spazio al fatto che troppo, come dici tu, sia fumo. La Serie A nulla c'entra su questo, se non per una conversazione che Meneghini ha definito conversazione tra tifosi. Poi erano due personaggi ben noti, ma non c'è nulla di concreto, quindi non c'è alcun coinvolgimento della Serie A, nonostante qualcuno ce lo voglia mettere o ce lo voglia cercare. Altro tasto che emerge sempre dall'intervista a Meneghini, il caso Napoli. Anche lì Meneghini fa una cosa che per un uomo di potere non è usuale. Dice: signori, ho sbagliato io, ha sbagliato la Lega, abbiamo sopravvalutato le capacità di Papalia, abbiamo sopravvalutato il fatto che Napoli fosse con le carte in regola per partecipare alla Serie A. Adesso Napoli è un'altra pietra dello scandalo in questa stagione. Sì, da una parte è sicuramente un grosso peccato per il movimento, perché poi dopo avere una squadra che ogni partita perde così nettamente, adesso c'è la possibilità anche che magari col tempo possa anche nella migliore delle ipotesi questi scarti possano anche aumentare di più, perché qualche giocatore magari dopo le feste può darsi che andando a casa per le feste natalizie non abbia neanche il ritorno, quindi diventa difficile pensare come questa è stata fatta. E vabbè, come dice il presidente Meneghin, se è stato fatto un errore, insomma, non c'è stata la beffa che abbia portato via qualche squadra, qualche punto, qualche squadra. Sì. Sarebbe stata la beffa se Varese domenica, esatto, che è l'unica squadra che ha vinto alla fine, sarebbe stata una beffa se l'unica partita vinta fosse stata quella, sarebbe stato poi difficile anche recuperare. Più che una beffa, un'irregolarità anche al campionato. Infatti, invece, sotto quell'aspetto non c'è stata beffa, e quindi, insomma, peccato che è finita così. E va bene ad alcune squadre, perché sai, adesso con quest'anno c'è una retrocessione sola, certo. Quindi tante squadre, insomma, voglio dire, dicono un sospirone di sollievo, che c'è già una squadra andata, quindi diciamo che è stata un po' anticipata la norma dell'anno prossimo, dove ci sarà una retrocessione sola, e quindi, insomma, bisogna buttarla anche così. E a proposito di squadre in difficoltà o non più in difficoltà, Pesaro, no? Che ne ha vinte due in fila, un'altra tua ex squadra, partita molto male, adesso battuto Napoli, fin qui si sono riuscite tutte, ha vinto anche con Ferrara una partita molto più delicata, diciamo una specie di faccia a faccia tra squadre in difficoltà. No, Carlo, per correggerti, non ha ancora battuto Napoli. Cremona ha battuto Cremona e Ferrara. Qui il Jolly Napoli ce l'ha ancora da giocare. Ancora il Jolly Napoli. L'Aspirina Napoli ce l'ha ancora. Pesaro ha avuto delle difficoltà iniziali con roster. Williams, che era un giocatore di punta, non ha avuto problemi all'inizio, è rimasto fuori tante partite, l'inserimento così. Dopodiché X, che l'anno scorso è stato il capocannoniere, quest'anno non lo capisco, giocatore che a me piace da morire, invece giocatore importante quest'anno all'inizio, anche perché poi quando parti male e vai in difficoltà un po' di ansia arriva, un po' la paura poi del risultato, poi si accumula sconfitta, allora ti viene la paura di non essere più in grado, la paura di quando vinci una partita, oddio adesso perdo anche questa. insomma non è facile. È chiaro che queste due vittorie erano un aspetto molto importante, una base di partenza fondamentale per ripartire. Adesso devono dare seguito, perché la lotta lì sotto è veramente difficile. Comunque io penso che Pesaro sia una squadra che riuscirà a tirarsi fuori, perché c'è qualità superiori, mi sembra un po' superiore anche a altre squadre. Sì, tra l'altro, come dicevi tu, il Jolly Napoli lo deve ancora giocare. Esatto. E Pesaro è proprio, a mio modo di vedere, anche vedendo la partita qua con Milano, era proprio una squadra che doveva levarsi da addosso questa scimmia, come si dice, di non vincere. Nel momento in cui ha vinto una partita si è definitivamente sbloccata, sì. Non a caso però anche quando Williams è tornato a fare il giocatore che comunque bene o male si aspettava. No? Ecco. È ancora una squadra con diversi problemi, perché Green, non l'abbiamo, Marquis Green, che ha dominato il campionato 2 anni fa con Avellino, non l'abbiamo ancora rivisto su quei livelli. X rimane per me il grande mistero di questa squadra. Invece, per rimanere in quella parte della classifica, siamo quasi in chiusura, ma Varese come la vedi? Ma Varese ha fatto un buon campionato, adesso bisognerà vedere come si svilupperà questi due punti di penalizzazione dati ieri dalla Comtech. E sì, è chiaro che di cambia poco, io penso da 10 ritornerebbe 8. È chiaro che fino a questo punto può essere in corsa per andare alle Final 8 di Coppa Italia. Ha fatto delle buone partite, ha dimostrato di essere una squadra solida. Adesso con l'aggiunta di J.R. Reynolds ha avuto beneficio anche Childress, che ha ripreso nelle ultime partite a fare buone partite, a essere importante. Hanno avuto l'opportunità di gestire la fascite, l'infortunio di Joby Thomas, che è un giocatore anche lui che fisicamente sta un po' così, però è andato a sprazzi. Stusek sta crescendo dopo l'inizio un po' in difficoltà dovuta alla inattività. Galand è un giocatore che ha passato anche lui qualche vicissitudine fisica, però sta riprendendo. Morandé in grande spover ultimamente sta segnando partite con una grande regolarità. Una squadra che sta riprendendosi bene, farà un buon campionato. Bene Attilio, siamo in chiusura, tornerà a trovarci naturalmente. Come dopo no. Natale, intanto facciamo gli auguri a te, a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì prossimo Natale non ci siamo, ma campionato di basket riparte il 3, poi ripartirà anche Palla a Spicchi ogni venerdì. Grazie Attilio Caia, grazie a voi. Flavio Suardi, a voi. Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. Buon pomeriggio a tutti.